Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Mentre proprio in queste ore si entra nel vivo nel rapporto banche-imprese, perché ci riunisce alle 18 anche il vertice con il ministro Maroni e il ministro Tremonti per far partire dentro le prefetture i comitati che andranno a monitorare come viene erogato il credito delle banche verso le imprese. Non sono i prefetti a farlo, diciamo, i prefetti ospitano il comitato che vede la partecipazione di esponenti del mondo delle banche, delle imprese, per monitorare l'andamento del credito, e saranno tavoli a questo punto presenti dove in ogni sede della prefettura a livello nazionale. Questa sera a ora di cena vi sarà un incontro tra il Presidente del Consiglio Berlusconi e i banchieri, i principali banchieri italiani, mentre oggi si è tenuto e si è concluso il Comitato di Stabilità Finanziaria presieduto da Mario Draghi. E nel frattempo sempre la Banca d'Italia è uscita con alcuni dati sulla stretta del credito che si è avuta a fine 2008 soprattutto verso i privati, ma anche, dice la Banca d'Italia, un peggioramento della qualità del credito, il che significa che, detto in soldoni, che le imprese sempre più in difficoltà, o le imprese in difficoltà, hanno più difficoltà a ripagare anche le banche, tant'è che il direttore della struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia, Giorgio Gobbi, ha detto il rischio di insolvenza nell'ultima parte del 2008 ha raggiunto il valore più alto degli ultimi 10 anni, se si esclude quel 2003 in cui fallì Parmalat. Questo è dovuto a un flusso di nuove sofferenze in rapida crescita, soprattutto tra i prestiti alle imprese, perché da un lato sul fronte dell'offerta le condizioni a cui vengono erogati questi prestiti dalle banche sono più difficili, ma anche è più difficile complessivamente poi la capacità di ripagare. Di questo parleremo in apertura con chi fa consulenza, oltre che ricerca, proprio per le imprese bancarie, ma anche imprese manifatturiere. Nel frattempo è arrivata la proposta, che avete già ascoltato, del leader del PD Franceschini, di aumentare una tantum, quindi con un contributo per i redditi superiori ai 120.000 euro. Ne parleremo anche nella seconda parte del programma, perché comunque vi è una difficoltà nel frattempo anche in America nel mettere in piedi delle misure efficaci sul fronte bancario, con grosse tensioni all'interno della squadra del ministro dell'economia Geithner, segretario del tesoro americano. Le borse vanno abbastanza bene, 0,5 punto percentuale di rialzo in quasi tutta Europa, Parigi più 0,7, Francoforte più 1,2, Londra invece negativa di 0,5, l'America è positiva di 0,5, Milano più 0,6% sul MIBTEL, più 1,3% sull'S&P MIB. Va molto bene oggi il Banco Popolare, più 14,4% a 2,21 euro. Intesa San Paolo più 7,90, Seat più 6,90, Unicredito più 5,7, Mediobanca più 5,5, Popolare di Milano più 4,4, Monte dei Paschi più 4,2, quindi forti tutte le banche oggi, Prismian più 4,16, STMicroelectronics più 3,80, Fiat pure, Pirelli più 3,70, Generali 3,5 punti percentuali di rialzo. Chiudiamo con l'Espresso e Telecom, che guadagnano, l'Espresso il 2,80, Telecom il 2%. Chi perde invece? Fastweb meno 7,5, Saipem meno 4,8, Terna meno 4,5, Mediaset meno 4,2, Finmeccanica meno 4% nel giorno in cui sono usciti i dati di Finmeccanica, Mondadori meno 3%, Lottomatica meno 2,80, Impregilo meno 2,6, Enel e Snam Rete Gas perdono il 2,4%. Ci occuperemo anche di pubblicità, perché oggi si è discusso delle prospettive degli investimenti pubblicitari in un convegno organizzato da Lupa, che riunisce appunto il mondo della pubblicità e degli investimenti pubblicitari dopo un 2008 complessivamente deludente, per usare quasi un eufemismo. 349-238-6666 per i vostri sms. Avremo modo di parlare anche dei notai. Oggi infatti si apre anche la parte che riguarda i commercialisti, non i notai, il congresso, il convegno, l'assise per meglio dire, che riunisce commercialisti e ragionieri, esperti contabili. Anche qui un ruolo che viene chiesto nei collegi sindacali, per esempio, ma non solo, anche un ruolo di consulenza. Partiamo con le notizie in breve. Il petrolio torna sotto i 45 dollari al barile, visto che ci sono attese di un aumento delle scorte americane. L'Euribor scende all'1,66%, il tasso interbancario di riferimento, ma soprattutto oggi il rendimento netto dei bot trimestrali e annuali messi oggi in asta dal Tesoro è nullo, cioè sotto l'1%. Praticamente, se si calcola anche la ritenuta fiscale del 12,5% e le commissioni sulle cedole dei titoli di Stato, il rendimento per i bot a tre mesi scende allo 0,55%, quelli a un anno allo 0,85%. E comunque buona la risposta del mercato oggi. Sono stati chiesti 20 miliardi di bot a fronte di 12 miliardi offerti. Si amplia la parità netta di UBS, colosso bancario svizzero e anche europeo, a 21 miliardi di franchi svizzeri, siamo intorno ai 13 miliardi e mezzo di euro. Tra l'altro c'è stato un peggioramento di 1 miliardo e 120 milioni di costi supplementari. Tra l'altro ricordo che UBS, che è la prima banca svizzera, è stata pesantemente colpita da questa crisi degli investimenti. Praticamente le sue perdite ormai hanno superato i 40 miliardi, ma la capitalizzazione di borsa è scesa da 116 miliardi a 24 miliardi di euro. Nel capitale è entrato di UBS il fondo sovrano di Singapore, che si è comprato quasi il 10% di UBS pagandola 10 miliardi di dollari. E allora parliamo adesso, restiamo in tema di esteri. Perché? Perché da un lato poco fa il presidente americano Barack Obama ha detto nel prossimo G20, quello di Londra, inizio aprile, che era di 24, seguirà anche con programmi speciali, occorrerà avere azioni concertate a livello mondiale, ma anche più regole. E poi Obama ha aggiunto: è importante non cadere nel protezionismo. Nel frattempo però continuano le polemiche in America, ne parleremo anche nella seconda ora, sulla capacità dell'amministrazione, del team di Geithner, del segretario del Tesoro, di rispondere a questa crisi. E c'è chi, come l'economista Nouriel Roubini, molto famoso perché predisse in un forum di Davos del 2006, vado a memoria, la crisi che si sarebbe poi verificata, o forse era il 2007, comunque con un ampio preavviso, e fu allora trattato come una Cassandra, come un gufo, animale a noi molto caro. Invece aveva ragione, e Roubini a questo punto afferma che per evitare che le banche zombie, come vengono chiamate in America, quelle che stanno in piedi ma sono dei morti che camminano, continuino a creare danni, a questo punto, secondo Roubini, non è più in questione se nazionalizzare queste banche, ma quando. Attualmente ci troviamo nel pieno di una recessione che dura da 15 mesi e penso che continuerà fino a fine 2009. Anche il prossimo anno la crescita sarà vicina a zero e il tasso di disoccupazione ben al di sopra del 10%. In pratica saremo in recessione per la maggior parte del 2010. La recessione potrà quindi durare in tutto fino a 36 mesi, invece dei 24 previsti dai più lo scorso anno. Una recessione che è la peggiore dalla Grande Depressione, Ora sta anche emergendo il rischio che la recessione prenda la forma a L, come quella vissuta dal Giappone dopo lo scoppio della bolla immobiliare e azionaria. E penso che ci sia un terzo di probabilità che si avveri lo scenario di recessione a L. Il problema è che sul piano di stimolo da quasi 800 miliardi di dollari solo 200 saranno spesi quest'anno. Su questi 200 miliardi la metà sarà in tagli fiscali, ma credo che sarà uno spreco di soldi. Lo scorso anno, infatti, sul miliardo di dollari di tagli fiscali, tre quarti del totale si è tramutato in risparmi e non in spesa, perché la gente è preoccupata per i posti di lavoro e per i mutui. Non credo quindi che i 200 miliardi di dollari siano abbastanza. Oggi ciò di cui abbiamo bisogno è una misura di stimolo, perché ogni componente della domanda sta crollando, come i consumi o l'export. Per ciò che riguarda le banche, l'unica soluzione può essere una temporanea nazionalizzazione del sistema bancario, altrimenti avremo un proliferare di banche zombie. Ecco perché anche il grande sacerdote del capitalismo basato sull'SFR, ossia Alan Greenspan, è favorevole a questo scenario. Penso dunque che la soluzione giusta sia la nazionalizzazione temporanea delle banche per fare pulizia, separare il buono dal cattivo e poi darle di nuovo al settore privato. E devo dire che Rubinini non è solo in questa idea che ormai in America sta prendendo piede tra molti economisti, che serve a poco continuare a dare soldi dentro le banche, garanzie, se poi tanto non si ha nessun effetto. Convenga a me, secondo molti economisti conviene più nazionalizzarle temporaneamente e poi rivenderle, ma almeno si evita di continuare a buttare soldi dei cittadini e quindi del contribuente dentro gruppi bancari che hanno fatto quello che hanno fatto in questi anni. Sul fronte dell'economia però arriva un brutto dato dalla Cina: le esportazioni sono calate del 26% e le importazioni del 24%. La bilancia commerciale cinese resta inattivo, ma per soli 4 miliardi e 800 milioni, mentre l'anno scorso nello stesso periodo l'attivo era di quasi 40 miliardi. È un calo, quello dell'esportazione cinese, peggiore di ogni previsione degli economisti. Tra l'altro, io ricordo che in Cina le esportazioni pesano per circa l'80% di tutti i beni prodotti. Dagli Stati Uniti e la Cina all'Europa, oggi il vicepresidente della Commissione Europea, Günther Verheugen, intervenendo al Parlamento di Strasburgo, ha detto: attenzione, l'impatto della crisi è stato sottovalutato. Non so da chi, non ne parliamo da un anno e mezzo, ma e l'Unione Europea non ha ancora fatto abbastanza per farvi fronte. Tra l'altro la Banca Europea degli Investimenti è arrivata ai limiti della sua capacità finanziaria, ma attenzione, ha detto Verheugen, perché quello che noi notiamo è un continuo blocco, chiusura dei rubinetti da parte delle banche europee verso le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese. Verheugen ha detto: un persistente blocco dell'attività creditizia, e nel secondo semestre dell'anno il fabbisogno di crediti delle piccole e medie imprese europee non potrà essere soddisfatto se si va avanti così. La situazione è molto grave. Questo fa il paio appunto con quanto registrava la Banca d'Italia oggi sulla fine del 2008, ossia il tasso di insolvenza più alto degli ultimi 10 anni in Italia, con nuove sofferenze in rapida crescita, soprattutto nei prestiti alle imprese e, ripeto, con condizioni di erogazione dei prestiti da parte delle banche peggiorate come qualità. La Banca d'Italia ha rilevato anche una brusca frenata del credito ai privati. Ora, siccome qui c'è un balletto continuo tra quello che dicono le banche in generale, che dicono non è vero che abbiamo ridotto i prestiti e il credito ai privati e alle imprese, e quello che dice la Banca d'Italia, noi insomma usiamo la Banca d'Italia come riferimento. Questo dato della Banca d'Italia è stato commentato anche da Umberto Bossi, che parlando alla Camera con i cronisti della crisi economica in atto ha detto: le banche devono cacciare i soldi per le imprese e le famiglie, bisogna controllare che questo accada. Bossi si è anche detto favorevole all'ipotesi di Franceschini, del leader del PD, di tassare i redditi più alti. Questo può anche andare bene in un momento di crisi, è giusto che chi più ha è meglio che contribuisca. Ascoltiamo allora la proposta di Franceschini, ossia contributo straordinario di 2 punti di tassazione sui redditi superiori ai 120.000 euro, quindi a partire da quelli dei parlamentari, per finanziare 500 milioni da destinare al contrasto della povertà. E per trovare questa somma proponiamo un contributo straordinario di solidarietà per il 2009 di 2 punti dell'IRPEF su tutti i redditi alti, partendo da quelli dei parlamentari compresi in su. Favorevole alla proposta anche l'altra voce del PD, Luigi Bersani. L'idea di una tantum può aiutare la ripresa dell'economia e soprattutto può aiutare a trovare i fondi per certe operazioni. Contrario invece il sottosegretario all'economia Luigi Casero. Sentiamo prima Bersani. L'idea che a partire dal reddito dei parlamentari in su ci sia un contributo straordinario intanto per fronteggiare immediatamente le condizioni dei più disagiati. Anche quindi il tema di un assegno per chi perde a qualsiasi titolo il posto di lavoro durante il 2009. Sono cose che sono finanziabili, non è vero che sono irrealistiche. A me pare francamente, non saprei come commentare, ecco la cosa, l'osservazione del Presidente del Consiglio che dice: ma se diamo l'assegno incentiviamo la disoccupazione. Se mica bisogna incentivarla, noi sono mesi che stiamo andando nella disoccupazione e non sarà certo l'assegno far aumentare la disoccupazione. E come dicevamo invece contrario il sottosegretario all'economia Luigi Casero, che parla di demagogia. A me sembra che Franceschini stia facendo della demagogia su un discorso complesso e difficile. In questa fase abbiamo innanzitutto la necessità di salvaguardare i posti di lavoro e quindi i soldi che sono stati messi a sostegno della cassa integrazione. Abbiamo la necessità di utilizzare al meglio questi soldi e quindi di andare a coprire anche quei lavoratori precari che nel passato e nello stato attuale non sono coperti dalla tradizionale cassa integrazione. Favorevole il segretario generale della CGIL Guglielmo Epifani, che chiede tra l'altro al governo di raddoppiare la durata della cassa integrazione ordinaria. Un'ultima notizia che riguarda la Toyota: taglierà del 10% i salari e l'orario di lavoro nelle fabbriche britanniche. Questo permetterà per i 4.500 dipendenti interessati di evitare la disoccupazione, cioè di non avere tagli di dipendenti. Allora, ce n'è abbastanza, visto che oggi il tema è soprattutto banche e imprese a livello americano, come abbiamo sentito, a livello europeo con l'allarme di Verheugen e a livello italiano con tutto questo insieme di incontri. Prima il Comitato di Stabilità Finanziaria, Mario Draghi, il rapporto della Banca d'Italia, alle 18 il vertice tra il Ministro Maroni e il Ministro Tremonti per questi comitati di vigilanza sul credito alle imprese da istituire presso le prefetture, e poi questa sera a ora di cena l'incontro tra il Presidente del Consiglio Berlusconi e i banchieri. Ce n'è abbastanza per capire anche in che situazione sia la dialettica, chiamiamola così, tra banche e imprese, cercando di capirla da chi fa consulenza, oltre che ricerca, alle banche e alle imprese. E allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento il professor Franco Rebuffo, che è presidente tra l'altro di Aleteia, società di ricerca e consulenza strategica, che appunto fa consulenza sia alle imprese bancarie che alle imprese anche manifatturiere, autore di un libro recentemente sull'eredità del Rinascimento come lezione per l'innovazione e l'impresa anche per l'Europa di adesso, casa editrice Guerini e Associati. Professor Rebuffo, buonasera. Buonasera, la ringrazio, buonasera. Partiamo dai temi di cronaca, restiamo anche sulla cronaca. Che fase, poi arriveremo a quello che è la sua esperienza, la sua testimonianza quando andate a incontrare i manager sia di banche che di imprese. Ma insomma, nella prima fase di questa crisi abbiamo visto il bubbone esplodere nel mondo della finanza, nemmeno delle banche vere e proprie, della finanza pura, delle banche, delle merchant bank, delle investment bank, insomma di chi lavorava con i derivati, con i prodotti strutturati, di chi si è portato a casa un rapporto leva 1,40, 1,50, cioè cose ingestibili. In che fase siamo adesso? Ma veda, noi entriamo in una fase caratterizzata dalla recessione. È come se avessimo vissuto il movimento di andata di un pendolo che dai mercati finanziari con la crisi della finanza strutturata ha impattato sulle banche e quindi sull'economia reale, e adesso stiamo entrando in un movimento di ritorno del pendolo, cioè i default che stanno minacciando l'economia reale è come se ritornassero indietro sulle banche con il problema della criticità del fornire credito alle imprese. Questo è un meccanismo, una circolarità che continua ad autoalimentarsi e che provoca una spirale che è difficilissimo spezzare, perché le banche sono restie ad erogare credito perché rischiano di entrare in un meccanismo di inesigibilità poi del credito, ma se non lo erogano, amplificano ancora di più il problema, perché fondamentalmente è come se favorissero il processo di default che c'è sui mercati dell'economia reale, e questo li ritorna indietro comunque. È un meccanismo che è difficile spezzare, e ripeto, i bond di Tremonti che aumentano la patrimonializzazione delle banche indubbiamente, ma non aiutano a spezzare questo meccanismo, perché comunque il rischio di credito è sempre a carico della banca. Quindi è difficile uscirne. Allora, se ho ben capito, lei dice la crisi è nata nel mondo bancario per colpa delle divisioni di, appunto, investment e merchant banking, e questo ha prodotto, ce lo ricordiamo tutti, a settembre-ottobre una chiusura brusca dei rubinetti. Sì, le banche, certo, non si prestavano i soldi nemmeno tra di loro, figurati se vanno, certo, a prestarle alle imprese e ai cittadini, perché nessuno si fidava e quindi tutti tenevano il denaro in saccoccia. Questo poi ha amplificato poi la frenata dell'economia, che era già in parte in corso, va detto per non dare tutta la responsabilità alle banche ma e al mondo della finanza, era già in corso, l'ha amplificata, perché se tu aumenti il tasso dei prestiti o se tu non li concedi proprio, se tu comunque hai altri problemi, è chiaro che le imprese vanno ancora più in difficoltà. Nel frattempo, vedere saltare per aria banche intere e l'assenza di liquidità ha complessivamente rallentato e posto in recessione l'economia mondiale. Ora sta tornando addosso alle banche questa cosa, cioè se da un lato l'hanno in qualche modo generata, il fatto che le imprese vadano sempre più in difficoltà rende più rischiosi, quindi più inesigibili, come, o potenzialmente più inesigibili, alcuni crediti che le banche hanno concesso a queste stesse imprese, perché se poi vanno in cassa integrazione, non vendono, l'export crolla, gli ordinativi pure, è chiaro che hai più difficoltà a ripagare le banche. E indubbiamente. E a questo punto le banche sono tentate di chiudere ulteriormente i rubinetti, ecco il circolo vizioso, la spirale viziosa che si autoalimenta. Come si interrompe un circolo del genere? Fermo restando che i Tremonti bond vanno bene, ma permettono alle banche di avere patrimonio, liquidità, poi devono essere loro a concederlo, non è che in automatico venga concesso. Mi consenta di fare un'ulteriore, prego, precisazione, perché lei ha detto una cosa, perché non appaia, diciamo così, troppo sbilanciata la responsabilità sulle banche. Bisognerebbe fare una precisazione, cioè non è che questa crisi nasce dalla finanza strutturata, come si va dicendo in giro in qualche modo, è la crisi di un ciclo economico, è la crisi di un ciclo economico che nasce negli anni 90 e nasce fondamentalmente dall'impresa, cioè dall'economia reale paradossalmente, cioè il meccanismo degli anni 90, che adesso la faccio molto breve, che sostanzialmente è: dobbiamo focalizzarci per evitare dispersione di prodotto che in qualche modo compromette il profitto, focalizziamoci e siamo efficienti. Allora, questo meccanismo che fa acquistare efficienza, quindi riduce i costi, però aumenta pazzescamente il rischio d'impresa, perché se io mi focalizzo sul core, sul prodotto core, aumento il mio rischio d'impresa. Questo ha favorito una classe di imprenditori che non sono più imprenditori come erano un tempo, ma sono degli investitori, perché per ovviare all'aumento di rischio d'impresa devo diversificare il portafoglio, quindi se mi si chiude un'impresa l'altra prospera. Questo ha innestato un meccanismo che parte dagli anni 90, quindi non è che dobbiamo in qualche misura... No, ma io non volevo... nell'ultima parte, cioè la crisi è scoppiata per via di un'esposizione incontrollabile e ancora incontrollata... Questo è stato l'elemento che ha fatto traboccare delle banche verso strumenti... voglio dire, avere preso tutti questi rischi, avere concesso tutti questi crediti, sapendo che tanto poi li impacchettavi, li spezzettavi, li distribuivi pezzetto per pezzetto a tutti e quindi ti sembrava di rischiare meno... E questa è stata la parte finale. D'accordo con lei che negli anni 90 si siano creati tutti i presupposti, ne abbiamo già parlato altre volte. Se vogliamo andare ancora più indietro, è da quando al mondo bancario del credito viene concessa la possibilità di mantenere il potere d'acquisto dei cittadini facendogli vivere una vita a rate, a credito, che tutto il meccanismo un po' salta, ma andremo un po' troppo in là con il ragionamento. Vorrei capire a questo punto, dopo le informazioni meteo e la pubblicità, come si può spezzare questo circolo vizioso, perché sennò è chiaro che continua a autoalimentarsi a livello europeo. E oggi l'allarme di Verheugen, lo ribadisco visto che ce lo chiedete, è il vicepresidente europeo, ha detto attenzione, c'è un persistente blocco dell'attività creditizia che nel secondo semestre dell'anno porterà a non soddisfare più e rendere praticamente difficilissimi i fabbisogni di liquidità delle imprese e delle piccole e medie imprese. La situazione è molto grave. ...17:37 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Fra poco commenteremo anche la borsa, che ha chiuso sui minimi però. Mibitel invariato, S&P Mib più 0,4, anche Parigi più 0,4, Francoforte più 0,7. Che è successo? Beh, è successo che l'America infatti adesso è in parità, cioè si è mangiato tutto il guadagno, e infatti anche le borse europee hanno perso mezzo punto percentuale nel finale. Resta molto forte Banco Popolare più 15,2%, bene Unicredito più 6, San Paolo più 5% come Mediobanca. Ne parliamo tra qualche minuto. Vorrei concludere invece l'analisi con il professor Franco Rebuffo. Allora, chiarito che questa spirale si stia autoalimentando, come la si interrompe? Ma veda, fondamentalmente non c'è un attore che possa interromperla, ci sono più forze che possono convergere per questo meccanismo, per spezzare questo meccanismo perverso. Ragionando a partire dalle banche, il problema è cambiare in qualche misura la cultura dell'intermediazione, perché ponendo che il problema chiave è erogare il credito e quindi riuscire in qualche misura a parare il rischio dell'insolvibilità, le banche in qualche modo dovrebbero muoversi per cercare di intercettare quelle situazioni d'impresa che in qualche modo hanno più possibilità di riposizionarsi nei confronti della crisi economica e appoggiare in qualche modo questo tipo di filone d'imprese. Faccio un esempio, le imprese che non hanno spezzato produzione, ricerca, engineering per esempio, le imprese che quindi sono più promettenti sul terreno dell'innovazione, premiare moltissimo il meccanismo dell'innovazione. Ovviamente le banche hanno una gamma enorme di imprese fondamentalmente, ma cercare di clusterizzarle in qualche misura e indirizzare strategicamente il credito su quei poli di impresa che servono di più alla ripresa. Lei dice le banche con i loro uffici interni che conoscono bene le imprese a cui hanno concesso credito dovrebbero concentrarsi soprattutto su quei blocchi di imprese al di là dei settori che stanno più innovando, certo, che avranno un ruolo di lupo alfa, di guida anche per il futuro, e quindi lì vai a concedere credito e crea un effetto anche virtuoso. Lei si è fatto, poi vorrei la testimonianza, devo però citare un caso, perché noi parliamo sempre di Euribor, di tassi, però i prestiti inferiori a un anno in Italia costavano ad agosto in media il 6,71% contro il 5,5% in Francia e il 6,3% in Germania. A ottobre 2008 si è arrivati al 6,91%, a dicembre 2008 si è arrivati al 6,34%, però la differenza con la Francia è alta, perché in Francia è al 5%, in Spagna al 5,6%, in Germania al 5,5%. Ora non si capisce perché in Italia costi quasi un punto percentuale in più finanziare un'impresa. se poi si va su prestiti inferiori ai 5 anni la cosa poco cambia, l'Italia sconta sempre tra il mezzo punto e il punto percentuale in più. Il problema che c'è sempre stato nelle banche italiane che sono state mediamente più care fondamentalmente rispetto alle banche europee, ma adesso il problema è ben altro, cioè è proprio che il credito non viene dato, c'è un credit crunch in qualche misura che occorre spezzare in qualche modo. E venendo proprio... Questo è l'elemento più importante, però... Mi consenta di andare un attimo avanti, perché non è solo a carico delle banche, anche le imprese devono cambiare il modo di fare impresa, perché le imprese fondamentalmente si sono molto in qualche modo basate su dei tassi, dei meccanismi di efficienza sul mercato e non di innovazione. Tenga presente che c'è un rapporto Clinton dell'epoca sulla ricerca, per cui uno dei meccanismi che ha caratterizzato questo ciclo economico è stato il fatto che la ricerca non è mai filtrata sui mercati, è rimasta negli scaffali dei centri di ricerca. C'è stato tutto un dibattito su questo fatto, che significa che le imprese hanno innovato poco e quindi le imprese dovrebbero molto muoversi sulla creazione di distretti che in qualche misura coagulano ricerca, servizi e impresa capofila, che in qualche modo riescano a tradurre l'innovazione sui mercati. Devono muoversi quindi anche sull'investimento a lungo. Occorre ritornare a un meccanismo di impresa che era precedente agli anni 90, era degli anni 80 in qualche misura, ma ovviamente riposizionato in una prospettiva totalmente nuova. Quindi anche le imprese devono fare la loro parte, e anche pesantemente. E lo deve fare anche la politica economica, ci dovrebbe essere una politica economica che libera dei settori promettenti, penso al biotech, penso alle fonti alternative di energia, penso a tutti quegli aspetti su cui noi potenzialmente siamo competitivi, noi abbiamo delle biotech che sono 5 anni di vantaggio sull'innovazione rispetto agli americani, perché siamo anche in fase clinica, eccetera. Tutte queste aspetti, forze devono essere liberate e devono essere tolte tutte le pastoie, sì. Penso al farmaco per esempio, il fatto che in qualche modo lo si penalizzi, lo si deprima sui costi, che si deprima la ricerca perché ci sono le barriere regionali in qualche misura, è una iattura terrificante. Dovrebbero esserci un concorso di forze che liberalizzano questi meccanismi e quindi liberino la potenzialità in qualche modo, e tutti devono fare la loro parte. No, io non voglio fare l'avvocato della politica, che non ne ha bisogno, però è chiaro che il suo ragionamento, il suo invito si scontra con poi delle esigenze anche molto più a breve. Mi spiego, è ovvio che aiutare il settore auto o il grande settore manifatturiero può non essere in chiave strategica la scelta migliore, se poi siamo tutti d'accordo che le auto così come sono fatte non potranno continuare a reggere tutti questi marchi, tutti questi colossi. Ma è anche vero che in questo momento il settore auto è uno dei settori che ha il maggior numero di occupati e dipendenti, per cui non può neanche andare per casa o lasciare in cassa integrazione decine di migliaia di operai. Ecco perché poi la politica delle volte si muove con un respiro un po' più corto rispetto a quello che lei stava dicendo, cioè individuare dei campioni, dei leader di settore e all'interno del loro settore, e da lì ripartire con un credito bancario più agevole in cui si valuti il rischio ma si diano i soldi per far ripartire l'economia. In una battuta però, professore Buffo, visto che voi non fate solo ricerca, fate anche consulenza, quando lei va e incontra i manager delle banche italiane o i manager delle imprese italiane, che esperienze proprio dirette riceve? Sono smarriti, sono sulla difensiva ma pronti a ripartire? Sono più grosso, ma non è soltanto il problema delle banche, il problema più grosso oggi nei manager in generale, cioè chi ha responsabilità di governo di un'impresa, è quella di essere bloccato da una morsa che sta stritolando, perché è grave l'attuale crisi, è molto grave. Questo è un fatto in qualche modo che è anche abbastanza naturale in una fase come questa, che è una sorta di guado che si sta attraversando, e come tutti i criteri, i valori, i punti fermi dei mercati in qualche modo crollassero, non funzionassero più, ed è difficile riorientarsi in qualche misura. Cioè, quello che si assiste oggi su chi ha responsabilità di governo di imprese è proprio questo smarrimento, manca il credito, manca le risorse di riposizionamento, mancano una serie di cose che sono crollate, E questo in qualche misura implica un fatto di smarrimento, se vogliamo. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che è il rovescio della medaglia, che ci sono anche molte opportunità in una situazione del genere, e io spero che comunque le partite siano giocate. Cioè lei trova una difficoltà anche nell'analizzare, devo dire che non solo nei manager bancari, in quelli industriali, penso anche alla categoria degli economisti, ben più nobile di quella dei giornalisti, però la difficoltà nel leggere la nuova crisi, nel avere dei paradigmi di riferimento per un nuovo modello di sviluppo è alta. A me sembra che siamo in una specie di linea d'ombra alla Conrad, in cui non si capisce ancora quello che sarà il futuro o il nuovo modello. Abbiamo capito che il vecchio non può più reggere, ma insomma siamo tra coloro che sono sospesi un po', professore Buffo. Anche un difetto degli economisti, che tendono a spiegare la crisi unicamente in chiave finanziaria, e non è così. La crisi è la crisi di un ciclo economico, cioè significa fondamentalmente, e cerco di spiegarlo in maniera il più chiaro possibile, che un ciclo economico che sorge con presupposti che sono serviti a uscire da una crisi precedente, in una certa misura, alla fine di questo ciclo, questi stessi presupposti che sono stati così virtuosi finiscono per produrre mostri. Questo è il tema fondamentale che gli economisti non riescono a spiegare, perché il meccanismo dell'economista è una spiegazione lineare in qualche misura. Ma adesso il meccanismo di ritorno, diciamo così, dai mercati dell'economia reale alle banche, questo meccanismo di rinvio del default sulla banca, è un meccanismo che non può essere spiegato con modelli statistici. Infatti è controstatistico il meccanismo. Un biologo evolutivo. No, adesso non possiamo andare su e aprire troppo il tema in questo modo. È chiarissimo quanto lei diceva. Le faccio solo presente, tornando a quello che si diceva prima, che va bene puntare sui leader. Questo è un paese, come segnalano molti ascoltatori, però, che ha un 85-98% in alcuni casi per cento delle imprese sotto i 50 e un 87-88 sotto i 10 dipendenti. Ora non è che possiamo buttare a mare questi, perché la ricerca, l'innovazione, sappiamo che la si fa da certe dimensioni in su. Occorre tenere assieme le due cose. Mi sembra però di capire, insomma, che anche da questo punto di vista le ricette in generale siano abbastanza là da venire per tutto un insieme di soggetti: manager, economisti, analisti e quant'altro. Nervi saldi, comunque noi ospitiamo qualunque tipo di analisi su questo, perché riteniamo che il dibattito delle idee poi possa portare a qualche soluzione concreta. Grazie a Franco Rebuffo. Le informazioni per chi è in viaggio adesso, e poi la borsa più zero nulla, invariato il Mibtel, S&P Mib più 0,5%, Francoforte più 0,7%, Parigi più 0,4%, Londra meno 0,6%, l'America adesso è negativa, meno 0,1%, euro in rafforzamento a 1,2770. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Un invito a chi scrive: calmi, cioè la crisi c'è, ci siamo in mezzo, inutile drammatizzarla, inutile anche però nasconderla. Questo lo dico, insomma, a tutti i vari interlocutori, per cui anche la classe politica in generale. La crisi c'è, il dato cinese oggi è, anche se qualcuno dice ma chi se ne frega della Cina, beh, insomma, mica tanto, quando la Cina non esporta più e non importa più, meno 30%, sono anche le nostre imprese che ogni tanto andavano in Cina, esportavano in Cina. E poi quando la Commissione Europea teme per il rapporto banca imprese, è un timore vero, soprattutto sulle piccole e medie imprese. Venerdì e sabato si terrà a Palermo un convegno biennale della piccola industria di Confindustria, ne sentiremo delle belle, perché insomma, chi soffre di più chiaramente è chi è più piccolo in questo momento, perché ha anche minor potere contrattuale nei confronti dei grandi gruppi bancari. Questo proprio è un dato di fatto. La borsa oggi bene, il Banco Popolare più 15,2% a 2,25 euro. Partiamo allora subito da lì. Paolo Paronetto, Radio Cori sulle 24 ore. Buonasera. Buonasera a tutti. Sì, il Banco Popolare è stato il migliore dell'SPV per tutta la seduta, chiuso con un rally del 15,23% e continuando tra l'altro il rialzo che era già avviato ieri. A spingere il titolo è sempre la notizia che la banca è stata la prima a presentare la richiesta formale per poter emettere. Sì, una domanda Paolo, la richiesta, l'ufficializzazione è arrivata ieri. Certo. Ha prenotato i soldi, come si dice in gergo. Il titolo ieri però aveva guadagnato molto poco. Cos'è, la borsa si è svegliata oggi? Probabilmente sono circolati i primi studi, i primi report anche degli analisti, degli operatori che calcolavano l'impatto positivo stimato sui 200 punti base sul Core Tier 1 per la richiesta di Tremonti Bond, di emissione di Tremonti Bond per 1,45 miliardi e quindi si è iniziato a ragionare sull'effetto positivo sui conti dell'istituto. Da sottolineare che forse c'è anche un po' di speculazione sui rinnovati rumors, tra l'altro di nuovo smentiti dalla banca, su una possibile cessione del credito bergamasco, e quindi mettendo insieme questi fattori si è arrivati al rally odierno, su cui tra l'altro comunque ha pesato in positivo anche oggi l'attesa per una soluzione, sembra ogni giorno che siamo sulle ultime battute, del caso Italease, la partecipata tra l'altro anche del Banco Popolare, che oggi ha guadagnato il 4,99%. Beni bancari, anche Unicredit più 5,96, Intesa più 5, Mediobanca più 4,80. Continuiamo con le banche, la Popolare di Milano guadagna il 3,20, il Monte dei Paschi il 2,90, Generali il 2,5, Alleanza l'1,90%. Sì, oggi tutti come ieri, del resto è stata la seconda seduta consecutiva di rimbalzo per il comparto bancario, ben intonato in tutta Europa, anche se ovviamente meno del balzo compiuto ieri. Il sottoindice europeo delle banche ha guadagnato l'1,5 e la stessa cifra più o meno il sottoindice del comparto assicurativo. Il rally è continuato generalmente anche negli Stati Uniti, anche se ovviamente in termini ridotti rispetto a ieri. Citigroup, che ieri aveva dato il là agli acquisti sulla notizia che i primi due mesi dell'anno sono stati chiusi inutile, sta guadagnando adesso a Wall Street il 5,5% e stanno mettendo a segno rialzi anche altri istituti bancari come JP Morgan. Quindi gli ordini di acquisto sono continuati oggi in tutta Europa e diciamo che nonostante sul finale i listini si siano un po' spenti, come hai detto tu, il MIB te l'ha chiuso oggi invariato, il settore bancario è quello che continua a beneficiare degli ordini di acquisto che hanno premiato più o meno gran parte dei titoli, quantomeno a Milano sono tutti positivi. Allora, bene anche Fiat più 3,4%. Qui oggi c'è la voce di una fusione Renault-Peugeot, già altre volte ripresa a stimolare il titolo. Pirelli più 3,6, Prismian più 4,2, Seat più 4,4. Sto dimenticando ST Microelectronics più 3,20 e l'Espresso più 1,1. C'è poco altro in giro. Tra chi ha perso, Fastweb meno 7%, Mediaset meno 5,2%, Saipem meno 5%, qui c'è un petrolio che è sceso di nuovo, Terna meno 4,70%, Enel meno 3%, Eni meno 2,5%, come Snam, A2A meno 2,80% e Finmeccanica meno 4,5%. Se riesci a tenere in un minuto Fastweb, Mediaset e Finmeccanica, che oggi ha presentato i conti, tra l'altro ieri sono usciti i conti Finmeccanica, dividendo 41 centesimi, utile 2008 a 621 milioni di euro, in crescita del 20% l'utile del gruppo guidato da Pierfrancesco Guarguaglini. Sì, per quanto riguarda Fastweb non si segnala nessuna notizia particolare, anche la controllante Swisscom oggi ha messo a segno una performance migliore di quella di Fastweb, ma comunque non particolarmente brillante, ha chiuso tutto sommato invariata con un frazionale rialzo dello 0,08%. Fastweb, ricordiamo che il flottante è piuttosto risicato, quindi quando c'è una prevalenza di ordini ed in un senso o nell'altro i movimenti sono anche piuttosto amplificati. Per quanto riguarda invece Mediaset, che oggi ha perso il 5,26%, pesano le parole dell'amministratore delegato Giuliano Adreani sull'andamento del mercato pubblicitario. Parlando del sistema nel suo complesso, Adreani ha sottolineato che il primo trimestre del 2009 sarà il periodo più difficile e non ci sono quindi segnali di ripresa. Adreani ha detto che il mercato sta continuando ad andare come in novembre e dicembre, quando si è raggiunto l'apice della crisi. per quanto riguarda e di questo parleremo nella seconda parte del programma. Rapidamente, Finmeccanica. Finmeccanica, all'indomani dei conti, come ricordavi tu, quello che ha pesato sull'andamento in borsa è stato probabilmente DRS. Il taglio delle stime per il 2009, che è stato abbassato per far fronte ovviamente al deterioramento delle condizioni economiche e delle spese per l'integrazione dell'americana DRS. E DRS Technologies se l'è pagata ben cara, Finmeccanica, e secondo molti analisti. Comunque, grazie Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore. Un ascoltatore scrive, anzi un direttore di banca: attenzione, sento nell'aria l'ottimismo, sta arrivando la ripresa, se ne sente già il profumo. Stefano da Brescia, direttore di banca, ci dica dove abita, così veniamo a trovarla. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare di pubblicità e di investimenti pubblicitari e poi del rapporto banca-imprese, di quello che può fare la politica, visto che, ripeto, oggi dovrebbe appena essere iniziato il vertice tra il ministro Maroni e il ministro Tremonti per rendere operativi gli osservatori di monitoraggio sul rapporto banca-imprese nelle prefetture di tutta Italia. E dall'altro, questa sera vi sarà una cena tra il Presidente del Consiglio Berlusconi e i principali banchieri italiani, visto che ieri è partita la prima richiesta di Tremonti Bond da parte del Banco Popolare e tutti si attendono che anche le altre tre grandi banche, Unicredito, Intesa e Monte dei Paschi, almeno queste, facciano richieste. Complessivamente sono a disposizione di tra i 10 e i 12 miliardi di euro. Prima di arrivare al rapporto banca-imprese e anche ai problemi un po' sottovalutati, ma che ha in questo momento Barack Obama con il suo ministro dell'economia, ossia col segretario al tesoro Timothy Geithner. Insomma, viene sconfessato da tutti gli economisti liberal, lo trovano troppo legato al suo passato. Geithner lavorò, se non ricordo male, anche a Lehman Brothers, ma soprattutto ha un insieme di persone che vengono da Lehman Brothers. Lo stesso Paul Volcker dice: attenzione, così non va avanti, così non va bene, c'è troppa confusione, non si sta ottenendo nessun risultato nel continuare a buttare dentro le banche americane centinaia e centinaia di miliardi. Va bene, ci arriveremo tra un attimo. Parliamo adesso però di pubblicità, di investimenti pubblicitari, quindi una cosa che ci riguarda come radio privata in maniera diretta. Eh sì, perché oggi se ne è parlato nella prima giornata di lavori organizzata dall'UPA, l'Utenti Pubblicità Associati, 500 aziende riunite, un convegno a Roma con le maggiori imprese industriali e i servizi che investono in pubblicità. Nel 2008, dati che cito adesso a memoria, nel 2008 la pubblicità è andata male nel settore stampa e quotidiani, ha tenuto invece nel settore televisione e radio, questo diciamo come idea generale. Il mercato è previsto però in calo del 10% e secondo gli operatori del mercato pubblicitario questo andamento potrà essere invertito solo nel primo trimestre del 2010. E proprio sull'andamento del mercato pubblicitario in questa fase e sulle attese per il futuro, quello a breve termine, la nostra Alessandra Scaglioni ha intervistato Lorenzo Sassoli De Bianchi, che dell'UPA è il presidente. Una delle caratteristiche della crisi è quella che ci impedisce di fare previsioni, perché domina un'incertezza generale. Possiamo dire che nei primi due mesi del 2009 la pubblicità è partita male, molto male, perché c'è paura, le aziende si tengono i budget in mano e quindi abbiamo un calo a due cifre. Noi speriamo che entro la fine dell'anno ci sia un recupero e si possa chiudere l'anno con un calo ma al di sotto delle due cifre, vuol dire meno del 10%. Tra i vari settori merceologici, quali sono quelli che soffrono un po' di più, che soffrono meno o che non soffrono? Partiamo da quelli che soffrono di più. Naturalmente tutto quello che è legato all'abitazione, arredamento, perché c'è questo fermo per quello che riguarda l'edilizia, le automobili naturalmente stanno soffrendo, l'abbigliamento sta soffrendo, mentre invece abbiamo settori che sono stabili abbastanza come l'alimentare, e settori addirittura in crescita, come le telecomunicazioni, i videogiochi, i giocattoli in generale, e come la cura per la persona. Quindi è una crisi che va letta un po' in chiaroscuro. Non tutto va male, ci sono settori, soprattutto quelli con una maggiore caratterizzazione innovativa, che funzionano meglio. Il mondo della pubblicità è riunito oggi anche per parlare delle prospettive di quello che sta cambiando nel mondo dei consumi. Che cosa sta cambiando, brevemente? Stanno cambiando molte cose. Fondamentalmente cambia l'attitudine del consumatore, che chiede alle aziende sempre più valore sui prodotti. E valore non vuol dire solamente un rapporto di prezzo-qualità giusto, ma vuol dire l'aggiunta di qualcosa rispetto ai prodotti che hanno trovato fino ad oggi, cioè prodotti più in sintonia con i nuovi stili di vita. Ci sono più rischi o prospettive nel futuro, ovvero rischi, parlo del rischio di uscire dalla crisi con un livello di redditività del settore più basso. Prospettive, quello di uscire dalla crisi con un settore in qualche modo ripulito di alcune rendite di posizione e di alcuni problemi. In cinese crisi si dice wei qi, ed è una parola composta da due ideogrammi, uno che dice problema e l'altro che significa opportunità. Questa crisi porta con sé problemi e opportunità. I problemi ovviamente sono legati ai conti economici delle aziende, le opportunità sono legate alla ridefinizione delle priorità, e questo vale per le aziende ma anche per i consumatori, che oggi sono molto più aristotelici, cioè molto più razionali nel momento che acquistano, e si chiedono veramente se l'atto d'acquisto abbia un senso o meno. Tutto questo porta, diciamo, ad un ripensamento generale che probabilmente corrisponde a quello che Schumpeter chiamava distruzione creativa. Ci liberiamo delle scorie per rimanere alle cose importanti. Così il presidente dell'UPA e quindi degli utenti della pubblicità, Lorenzo Sassoli De Bianchi, d'accordissimo che la crisi sia anche un'opportunità. La citazione di Schumpeter è una citazione molto alta, no? La distruzione creativa, per ora quello che vediamo però è soprattutto la parte distruttiva più che quella creativa. Ma arriverà anche l'altra, immagino, Oscar Giannino, buonasera. Buonasera a lei e a chi ci ascolta. No, dico, arriverà anche la parte creativa, perché prima o poi si tornerà a creare, bisogna capire da diciamo macerie, da che basi ripartiamo a creare. Dopo le informazioni per chi è in viaggio, Oscar, vorrei capire il rapporto banche-imprese, come si può sbloccare, ne abbiamo parlato nella prima ora del programma, alla luce, colgo lo spunto dai tavoli di oggi tra il ministro Maroni e quello Tremonti, l'incontro di Berlusconi con i banchieri, il ricorso ieri del Banco Popolare per la prima volta ai Tremonti Bond, la richiesta, ma anche vorrei un tuo commento su questi dubbi fortissimi che si stanno abbattendo sull'amministrazione Obama e sul suo ministro dell'economia, ossia Timothy Geithner. Gli stessi guru, premio Nobel Stiglitz, Paul Krugman, gente che insomma ha criticato Bush da sempre, è molto molto dura con le mosse del tesoro americano, e lo stesso padre putativo di tutti questi economisti liberal, Paul Volcker, ex presidente Fed, super consigliere di Barack Obama, compatisce il giovane giovanilista Timothy Geithner. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Sorrido perché c'è un ascoltatore che scrive, Antonio da Crema: prima della crisi di che cosa si parlava in questo programma? No, guardi, è 9 anni che c'è il programma, parlavamo di settori industriali, di prospettive, dell'economia internazionale, delle borse, della finanza, insomma era un po' più variegato, lo ammetto, però che dobbiamo fare? Allora, Oscar Giannino, primo tema, il ruolo delle banche e il rapporto banche imprese. Ti faccio ascoltare cosa ha dichiarato oggi Nuriel Rubini, e non Rubini, avete ragione, di origine italiana. Dice sostanzialmente il problema non è più se nazionalizzare, ma quando nazionalizzare le banche americane. Attualmente ci troviamo nel pieno di una recessione che dura da 15 mesi e penso che continuerà fino a fine 2009. Anche il prossimo anno la crescita sarà vicina a zero e il tasso di disoccupazione ben al di sopra del 10%. In pratica saremo in recessione per la maggior parte del 2010. La recessione potrà quindi durare in tutto fino a 36 mesi, invece dei 24 previsti dai più lo scorso anno. Una recessione che è la peggiore dalla Grande Depressione. Ora sta anche emergendo il rischio che la recessione prenda la forma a L, come quella vissuta dal Giappone dopo lo scoppio della bolla immobiliare e azionaria. E penso che ci sia un terzo di probabilità che si avveri lo scenario di recessione a L. Il problema è che sul piano di stimolo da quasi 800 miliardi di dollari solo 200 saranno spesi quest'anno. Su questi 200 miliardi, la metà sarà in tagli fiscali, ma credo che sarà uno spreco di soldi. Lo scorso anno, infatti, sul miliardo di dollari di tagli fiscali, tre quarti del totale si è tramutato in risparmi e non in spesa, perché la gente è preoccupata per i posti di lavoro e per i mutui. Non credo quindi che i 200 miliardi di dollari siano abbastanza. Oggi ciò di cui abbiamo bisogno è una misura di stimolo, perché ogni componente della domanda sta crollando, come i consumi o l'export. Per ciò che riguarda le banche, l'unica soluzione può essere una temporanea nazionalizzazione del sistema bancario. Altrimenti avremo un proliferare di banche zombie. Ecco perché anche il grande sacerdote del capitalismo basato sull'SFR, ossia Alan Greenspan, è favorevole a questo scenario. Penso dunque che la soluzione giusta sia la nazionalizzazione temporanea delle banche per fare pulizia, separare il buono dal cattivo e poi darle di nuovo al settore privato. Allora, chiedo scusa a Rubini perché ha studiato la Bocconi, non è di origine italiana e medio orientale. Ancora la recessione a L è come la lettera, cioè una recessione in cui si resta in stagnazione per moltissimi anni come il Giappone, rispetto a una recessione fatta a V o a U, in cui si va giù e poi si torna su. Banalizzando, Oscar Giannino, partiamo dalle banche americane, però arriviamo alle banche italiane. L'allarme oggi della Banca d'Italia, credito ristretto, insolvenze a rischio, la stessa Commissione Europea. Oscar. Io partirei sì, da quelle italiane e quelle europee, ma con una precisazione. Per i miei studi, per così dire, di formazione, e per quindi la scuola in cui mi riconosco, che è una scuola, insomma, per dirla in due parole, Chicago è sanamente conservatrice sul fatto che le politiche fiscali lasche producono questi risultati di instabilità, la mia opinione è che finché l'America non fa pulizia nelle cinque maggiori banche, che hanno il 65-66% degli asset bancari di tutto il mercato americano, la recessione non si ferma. Quindi io penso che quello è il problema e lì è la soluzione. Detto questo, gli incontri che sono in corso oggi con il governo e il sistema bancario italiano hanno uno sfondo alle nostre spalle. Noi siamo reduci da alcuni mesi in cui il confronto tra il sistema bancario e mediato dal regolatore e poi con il governo è stato sulle condizioni, sull'onerosità degli aiuti, cioè di questi strumenti ibridi attraverso i quali si potevano ripatrimonializzare le banche che avessero bisogno. La mia opinione è che questo confronto era necessario, grazie al cielo non ci sono stati istituti che in un classico sabato mattina chiedevano alla Banca d'Italia e al governo di essere salvati entro lunedì mattina, questo è stato un bene, però la mia opinione è che il confronto sia durato troppo a lungo, questa è la mia opinione e quindi io devo dire la verità, considero che qualche mese lo si è perso, ecco, non tanto per il rilancio in borsa dei titoli degli istituti che faranno ricorso ai cosiddetti Tremonti Bond, come si vede la prima banca, il Banco Popolare che vi ha fatto ricorso, schizza verso l'alto sul mercato e questo capiterà inevitabilmente. Anche in più Italia. 15% oggi. Ecco, no? Come nel resto del mondo capita inevitabilmente a tutte le banche che dichiarano di accettare il sostegno pubblico, ma non è tanto questo, cioè non è per dare una boccata d'ossigeno a chi ha i titoli di quelle banche, è perché noi abbiamo bisogno di ripatrimonializzarle. Nelle nostre banche ci sono molti meno asset ossici, come oramai noto, che nel sistema anglosassone, tuttavia le nostre banche hanno tre problemi storici nei loro attivi patrimoniali. ed è di quelli che quindi bisogna oggi mettere qualche, e a quelli che bisogna mettere qualche riparo. Quali sono questi tre problemi? Sono i goodwill, cioè gli avviamenti, che sono, diciamo, a valori troppo elevati, soprattutto per quelle banche che sono reduci da consolidamenti, cioè aggregazioni e fusioni molto importanti negli ultimi anni. Hanno messo dei valori quando hanno fatto quelle fusioni che oggi sono da correggere verso il basso e quindi richiedono nuovi accantonamenti patrimoniali. C'è un problema storico di maggiori sofferenze e incagli che oggi naturalmente si impennano, e anche questo richiede ripatrimonializzazione. E poi c'è un problema per tutte le banche che hanno molte società controllate o partecipate, perché ovviamente tu devi accantonare a riserva patrimonio, perché quelle società hanno perso dal 40 all'80% certo, del valore in un anno. Quindi ci sono questi tre problemi al di fuori degli asset tossici, quindi forse si poteva fare un po' prima. Io devo dire la verità, non credo molto, pur non essendo contrario, ma esprimo un generale scetticismo verso questo strumento che oggi invece sarà lanciato. Il monitoraggio. Ma l'idea di coinvolgere le prefetture come osservatorio territoriale nelle quali, nel quale incrociare la richiesta di più crediti da parte di imprese, soprattutto di quelle in difficoltà, con l'offerta da parte delle banche, certo è un meccanismo che avvicina al territorio e fotografa forse meglio la realtà, però la mia opinione è che i prefetti e i funzionari delle prefetture non hanno alcuna competenza in materia, e fatico anche un po' a immaginare, magari mi sbaglio, può essere, se è così, fatico a immaginare gli imprenditori in difficoltà che si mettono in fila e dichiarano di fronte a tutto il mondo, in fila di fronte all'ufficio del prefetto. Ho chiesto 20 milioni, me ne hanno dati solo 15, cioè, con un tasso doppio. Oscar Giannino, una domanda, perché siamo in conclusione, però noi siamo partiti da un ragionamento di Rubini che dice, attenzione, continuare a buttare soldi a garanzia delle banche o dentro le banche non sta servendo a niente, occorre nazionalizzarle, ripulirle e rimetterle sul mercato. Allora io ti chiedo, molti ascoltatori ci pongono questa domanda, ma perché questi soldi, questi 12 miliardi di Tremonti, non vengono dati direttamente alle imprese attraverso crediti agevolati dello Stato? Cioè, bypassare le banche, o le nazionalizziamo o le bypassiamo? Questo è un po' il tema degli SMS. In un minuto, se riesci a rispondermi. Se pensiamo che la Gran Bretagna, essendo fuori dal sistema europeo delle banche centrali, da due settimane ha consentito alla Bank of England, cioè alla sua banca centrale, con sostegno del tesoro, cioè moneta stampata in più, di acquisire asset direttamente dalle imprese, commercial papers oppure asset. Noi non possiamo farlo nell'eurosistema, perché le regole dell'eurosistema sono quelle che si può dare come controvalore per avere più liquidità, ma controvalore asset delle imprese solo se è la banca a mediare questa istanza presso la Banca Centrale Europea. Io devo dire la verità, sono tra quelli che pensano che in questa fase bisognerebbe che i paesi dell'eurosistema chiedessero alla BCE di innovare e di farlo fare ciascuno alla propria banca centrale con il tesoro che lo sorregge, e questo terrebbe conto anche dei diversi spread del debito pubblico, quindi ci sarebbe chi può farlo di più e chi può farlo di meno. Ma credo che di qui a un paio di trimestri, per sostenere soprattutto le piccole imprese, qualcosa di questo genere bisognerebbe farlo anche da noi. Questo è il timore, cioè che non basti né la garanzia dei prestiti dello Stato, i Tremonti Bond da noi, ma non solo, in Germania, in Francia, in Gran Bretagna ne sono di analoghi, e né che basti chiedere o monitorare, osservare, fare moral suasion sulle banche. Se peggiora la condizione dei prestiti, che diventano sempre più inesigibili o più a rischio di essere inesigibili perché le imprese vanno in difficoltà, si autoalimenta questa spirale negativa. Per interromperla bisognerà a un certo momento dare nuove linee di credito alle piccole, piccolissime, ma anche qualche media impresa. Grazie Oscar Giannino, vice direttore di Libero. Vedo che alcuni di voi suggeriscono come animale, oltre al nostro gufo quando le cose vanno male, al gallo quando le cose vanno bene, la poiana. Mi sfugge, diciamo, il significato secondo. Investigheremo. Per ora buona serata da Sebastiano Barisoni, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.